ad alta voce. Agnese Nano legge Il mistero di Edwin Drood di Charles Dickens. Traduzione di Marisa Sestito. 13ª puntata. Sotto accusa. Neville Landless era partito così di buon'ora e aveva camminato così di buon passo che quando le campane cominciarono a suonare a Cloisterham per la funzione mattutina si trovava già a 8 miglia di distanza. Visto che a quel punto voleva far colazione, avendo mangiato solo un pezzo di pane prima di partire, si fermò alla prima taverna lungo la strada per ristorarsi. Clienti desiderosi di far colazione, a meno che non si trattasse di cavalli o buoi, una categoria di ospiti accolta da acqua e fieno in quantità, erano talmente inconsueti alla taverna del carrettiere che la carretta ci mise un bel po' a mettersi sulla carreggiata di pane abbrustolito, pancetta e tè. Neville, nel frattempo, sedeva in una saletta col pavimento cosparso di sabbia, chiedendosi quanto ci sarebbe voluto dopo la sua partenza perché il fuoco di fascine umide, ansante, costipato cominciasse a scaldare qualcuno. Si fermò a circa un quarto di miglio dalla taverna, incerto se proseguire lungo la strada o prendere un sentiero carreggiabile tra due alte siepi che saliva lungo il pendio ventoso della brughiera ed evidentemente andava a ricongiungersi con la strada dall'altra parte. Decise per il sentiero e lo seguì con una certa fatica, poiché la salita era erta e segnata da solchi profondi. Procedeva con sforzo quando si rese conto che da dietro arrivava gente. Visto che salivano a passo più spedito del suo, si addossò alla siepe per fargli passare. Ma si comportarono in modo molto strano. Solo 4 lo oltrepassarono. 4 rallentarono, indugiando come intenzionati a seguirlo una volta che avesse ripreso il cammino. Gli altri, forse una mezza dozzina di uomini, si voltarono e tornarono rapidamente sui loro passi. Guardò i 4 dietro, poi guardò i 4 davanti. Tutti restituirono lo sguardo. Riprese a camminare. I 4 davanti avanzarono continuando a guardarsi indietro. I 4 dietro seguirono a distanza ravvicinata. Sbucando dallo stretto sentiero sulla discesa aperta della brughiera e mantenendo tutti lo stesso ordine, nonostante lui continuasse a spostarsi sull'uno o sull'altro lato, non rimase alcun dubbio sul fatto che quegli individui intendevano accerchiarlo. Si fermò per l'ultima verifica e tutti si fermarono. «Perché mi state alle costole?» chiese al gruppo. «Siete una banda di ladri?» «Non rispondetegli», disse uno. «Lui non capì chi. Meglio star quieti». «Meglio star quieti?» ripeté Neville. «Chi ha parlato?» Nessuno rispose. «È un buon consiglio, chiunque sia il vigliacco che l'ha dato», continuò infuriandosi. «Non ci sto a farmi bloccare con 4 da una parte e 4 dall'altra. Voglio passare davanti a quelli e intendo farlo». Tutti stavano immobili, incluso lui. «Se 8 uomini o 4 o 2 ne attaccano uno», continuò sempre più rabbioso, «quell'uno non può far altro che lasciare il suo segno su qualcuno di loro. E lo faccio, per Dio, se continuate a ostacolarmi». Mettendosi in spalla il pesante bastone e affrettando il passo, si mosse in fretta per superare quelli davanti. L'uomo più grosso e robusto del gruppo si spostò rapidamente sul lato da cui stava arrivando e lo attaccò con destrezza, finendo a terra con lui, ma non prima che il pesante bastone l'avesse colpito con forza. «Fermi», disse l'uomo con voce soffocata mentre lottavano sull'erba. «Un combattimento leale. in confronto a me al fisico di una ragazzina e in più allo zaino sulle spalle. Lasciatelo stare, ci penso io. Dopo essere ruzzolati per un po' a terra in un corpo a corpo che imbrattò di sangue le facce di entrambi, l'uomo tolse il ginocchio dal petto di Neville e si alzò dicendo: «Ecco fatto, adesso prendetelo sotto braccio due di voi». Eseguirono all'istante. «Quanto all'essere una banda di ladri, signor Landless», disse l'uomo, sputando del sangue e pulendoselo dalla faccia, «come fate a pensarlo in pieno giorno? Ci avete costretto, altrimenti non vi avremmo toccato. Comunque, adesso vi portiamo sulla strada maestra, così troverete tutto l'aiuto che vi serve contro i ladri. Qualcuno gli pulisca la faccia. Gocciola sangue da tutte le parti». Dopo che gli ebbero pulito la faccia, Neville riconobbe nel parlante giù il vetturino dell'omnibus di Cloisterham, che aveva visto una sola volta il giorno in cui era arrivato. «E quello che per ora vi raccomando, signor Landless, è di non parlare. C'è un amico che vi aspetta sulla strada maestra. Lui è andato per di là quando ci siamo divisi in due gruppi. E sarà molto meglio per voi se non dite niente finché non lo raggiungerete. Uno di voi prende il bastone e muoviamoci». Del tutto disorientato, Neville si guardò intorno senza dire una parola. Camminando tra i due guardiani che lo tenevano per le braccia, proseguì come in sogno, finché giunsero di nuovo sulla strada e si trovarono in mezzo a un gruppetto di persone. Tra di loro c'erano gli uomini che erano tornati indietro e le due figure centrali erano Jasper e Crisparkle. I suoi guardiani lo condussero dal canonico e poi lo lasciarono libero in segno di rispetto. «Che significa tutto questo, signore? Che succede? Mi pare di ammattire», gridò Neville mentre il gruppo gli si stringeva intorno. «Dov'è mio nipote?» chiese Jasper furiosamente. «Dov'è vostro nipote?» ripeté Neville. «Perché lo chiedete a me?» «Lo chiedo a voi perché siete l'ultima persona che è stata insieme a lui e lui non si trova da nessuna parte». «Non si trova?» gridò Neville sconvolto. «Calma, calma!» disse Crisparkle. «Permettete, Jasper. Neville, siete confuso, riordinate i pensieri. È della massima importanza che siate lucido. Ascoltatemi. Ci provo, signore, ma mi sembra di essere pazzo. Ieri notte siete uscito dalla casa di Jasper insieme ad Edwin Drood? Sì. A che ora? Era mezzanotte?» chiese Neville portandosi la mano alla testa confusa e rivolgendosi a Jasper. «Proprio così», disse Crisparkle. «È l'ora che mi ha detto Jasper. Siete scesi insieme al fiume?» «Sì, certo, per vedere la violenza del vento. E poi quanto vi siete fermati?» «Una decina di minuti, non di più direi. Poi siamo tornati indietro e lui mi ha salutato sulla porta di casa vostra». «Ha detto se andava di nuovo giù al fiume?» «No, ha detto che andava direttamente a casa». Gli astanti si guardarono l'un l'altro e guardarono Crisparkle, al quale Jasper, che non aveva mai staccato gli occhi da Neville, disse con voce bassa, nitida e carica di sospetto: «Cosa sono quelle macchie che ha sui vestiti?» Gli occhi di tutti si fissarono sul sangue che gli macchiava gli abiti. «E qui, sul bastone, ci sono le stesse macchie», disse Jasper, prendendolo all'uomo che lo teneva in mano. «So che è il suo bastone, ce l'aveva la notte scorsa. Che significa questo?» «In nome di Dio, Neville, dite cosa significa», lo esortò Crisparkle. «Quell'uomo e io», disse Neville indicando il suo avversario di poco prima, «abbiamo lottato per il bastone poco fa e le stesse macchie le potete vedere addosso a lui. Cosa dovevo pensare quando mi sono trovato con 8 persone che mi molestavano? Potevo mai immaginare il vero motivo, visto che non hanno voluto darmi spiegazioni?» Ammisero di aver pensato che era più prudente tacere e dissero che la lotta c'era stata. Tuttavia, proprio quegli uomini che vi avevano assistito guardarono torvi le macchie che la limpida aria fredda aveva già seccato. «Neville, dobbiamo tornare», disse Crisparkle. «Di sicuro sarete lieto di chiarire la vostra posizione». «Di sicuro, signore. Il signor Landless camminerà al mio fianco», continuò il canonico voltandosi indietro. «Venite, Neville». Si avviarono sulla via del ritorno e gli altri, con una sola eccezione, li seguirono in ordine sparso. Sarebbe stato difficile decidere chi fosse più inorridito e stupefatto, se Neville Landless oppure John Jasper. Non fosse stato per il fatto che la posizione di Jasper costringeva all'attività e quella di Neville alla passività. Tra i due non ci sarebbe stato da scegliere. Erano entrambi accasciati e distrutti. Alle prime luci del mattino successivo vi erano uomini che lavoravano sul fiume e altri uomini, per lo più volontari, che perlustravano gli argini. Le ricerche continuarono per tutto il giorno, sul fiume con barconi e pertiche, draghe e reti, sulla riva fangosa coperta di giunchi, con stivaloni, accette, vanghe, corde, cani e ogni strumento immaginabile. Votato. Ora accadde che Crisparkle fece una memorabile passeggiata notturna. Si incamminò verso la chiusa di Cloisterham. Lo faceva spesso e dunque non vi era nulla di rimarchevole nella direzione presa dai suoi passi. Ma il turbamento a tal punto gli impedì di decidere sulla via da prendere o di notare i particolari del percorso, che divenne consapevole di trovarsi nei pressi della chiusa solo quando sentì nelle vicinanze lo scroscio della cascata. «Ma come ci sono arrivato?» fu il suo primo pensiero nel fermarsi. «Perché ci sono venuto?» fu il secondo. Poi rimase immobile, assorto, ad ascoltare il rumore dell'acqua. Un passo familiare delle sue letture gli risuonò tanto istintivamente all'orecchio da farglielo allontanare con la mano, come fosse una cosa tangibile. Era una notte stellata. La chiusa si trovava a 2 buone miglia a monte del luogo dove si erano recati i ragazzi a guardare la tempesta. Lassù non si erano fatte ricerche, dato che la corrente di marea scorreva a valle impetuosamente a quell'ora di notte della vigilia di Natale e i posti più probabili per il ritrovamento di un corpo, se in tali circostanze fosse accaduta una disgrazia, erano tutti situati, sia in bassa che in alta marea, tra quel punto di osservazione e il mare. L'acqua sciabordava sulla chiusa, con il suono consueto, in una fredda notte stellata, e la si intravedeva appena. Eppure Crisparkle ebbe la strana sensazione che lì intorno vi fosse qualcosa di insolito. Ragionò tra sé se cos'era, dov'era. Doveva verificare. Quale senso stimolava? Nessuno dei suoi sensi coglieva alcunché di inusuale. Ascoltò di nuovo e il suo udito di nuovo percepì lo sciabordio dell'acqua sulla chiusa e il suono consueto in una fredda notte stellata. Sapendo molto bene che il mistero che occupava la sua mente poteva di per sé infondere al luogo un'aria spettrale, aguzzò quei suoi occhi di falco per vedere più distintamente. Si avvicinò alla chiusa e scrutò i pali e le travi a lui ben noti, ma non gli apparve nulla di neppure lontanamente insolito. Comunque decise di tornare la mattina dopo, di buon'ora. La chiusa attraversò il suo sonno agitato per tutta la notte e all'alba era di nuovo sul posto. Quando si trovò dove era la notte precedente, l'intera scena davanti a lui si rivelò nitidamente fin nei più piccoli particolari. Era rimasto in attenta osservazione per qualche minuto e stava per distogliere lo sguardo quando esso fu vivamente attratto verso un punto preciso. Girò le spalle alla chiusa e fissò gli occhi lontano sul cielo, sulla terra e poi guardò di nuovo quel punto. Di nuovo immediatamente gli catturò lo sguardo e su di esso concentrò la vista. Non poteva sfuggirgli ora, per minuscola che fosse, quella macchiolina nel paesaggio. I suoi occhi ne erano affascinati. Le sue mani iniziarono a togliere il mantello, poiché lo colpiva che in quel punto, in un angolo della chiusa, vi era qualcosa di luccicante che non si muoveva né si spostava con le luccicanti gocce d'acqua, ma rimaneva immobile. Quando ne fu certo, si tolse gli abiti, si tuffò nell'acqua gelida e nuotò verso quel punto. Arrampicatosi sulle travi, ne trasse, impigliato per la catena negli interstizi, un orologio d'oro che aveva incise sulla cassa le iniziali E.D. Portò l'orologio a riva, nuotò di nuovo fino alla chiusa e si arrampicò e si tuffò. Conosceva ogni cavità, ogni angolo del fondo e continuò a tuffarsi e a rituffarsi finché non riuscì più a sopportare il freddo. Era convinto che avrebbe trovato il corpo. Trovò solo una spilla da cravatta conficcata nel fango e nella melma. Con queste scoperte tornò a Cloisterham e, portando con sé Neville Landless, si recò immediatamente dal sindaco. Fu mandato a chiamare Jasper, furono identificati orologio e spilla. Fu arrestato Neville e contro di lui si scatenò una vacua frenesia di maldicenze. E le ricerche proseguirono in ogni direzione e Jasper vi partecipò affannosamente giorno e notte. Ma non si trovò altro. In assenza di scoperte che provassero la morte dello scomparso, divenne infine inevitabile il rilascio della persona sospettata dell'omicidio. Neville fu rimesso in libertà. Così la via della canonica non rivide Neville Landless e lui se ne andò verso dove voleva o poteva con una macchia sul suo nome e sulla sua reputazione. Solo allora Jasper silenziosamente riprese il suo posto nel coro. Con gli occhi arrossati e l'aria smunta, era evidente che la speranza lo aveva abbandonato. L'ottimismo era scomparso e tutti i peggiori presentimenti erano riemersi. Uno o due giorni dopo, togliendosi la cotta, prese il diario da una tasca della giacca. Girò le pagine e con uno sguardo significativo, senza dire una sola parola, porse a Chris Sparkle questa annotazione perché la leggesse. Il mio caro ragazzo è stato assassinato. La scoperta dell'orologio e della spilla mi dà la certezza che è stato assassinato quella notte e che i gioielli gli sono stati sottratti per impedire che servissero a identificarlo. Tutte le mie illusorie speranze basate sulla separazione dalla sua promessa sposa, le getto al vento. Periscono di fronte a questa fatale scoperta, ma io giuro, e sulla pagina registro il mio giuramento, che mai più parlerò di questo mistero con anima viva, finché non ne avrò in mano la chiave, che manterrò inalterate la mia segretezza e le mie ricerche, che getterò l'orrendo omicidio del mio caro ragazzo addosso all'assassino, e che sono votato alla sua distruzione. Agnese Nano ha letto Il mistero di Edwin Drood di Charles Dickens, a cura di Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su RaiPlay Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.